ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro settimo, versi 795-861. Libro ottavo, versi 1-182. Foco, figlio di re Eaco, chiede a Cefalo di che legno sia il suo splendido giavellotto. E Cefalo racconta, con le lacrime agli occhi, le alterne vicende del suo amore per Procri, ardentissimo ma vessato dalla gelosia. Qui tace. «Ma il giavellotto che delitto ha commesso?» domanda Foco. E lui riferisce i delitti del giavellotto così. «La felicità è alla fonte del nostro dolore. Prima ti parlo di quella. Ah, quanto, figlio di Eaco, ricordarsi degli anni felici è dolce, di quando, com'è naturale, io mi godevo mia moglie, lei suo marito. Che condivisa attenzione, che tenerezza reciproca. Al mio amore lei non avrebbe preferito il letto di Giove, me non mi avrebbe sedotto nemmeno Afrodite, nemmeno insistendo. La stessa identica fiamma bruciava due cuori. Di solito, quando il primissimo sole feriva le creste dei monti, io me ne andavo a caccia nei boschi come un giovanotto, senza portarmi servi, cavalli o cani da fiuto o una treccia di reti. Il mio giavellotto mi bastava. Quando poi mi si era stancato il braccio di abbattere bestie feroci, riguadagnavo il fresco e l'ombra e l'aura, la brezza che saliva dal fondo valle. Quest'aura dolce cercavo nel cuore dell'afa, quest'aura aspettavo nient'altro, lei sola sollievo alle mie fatiche. Vieni, aura, ricordo, cantavo, vieni a farmi felice, scivola contro il mio petto, carissima, come sai fare tu sola, seda, ti prego, il caldo che mi divora. E forse, questo il destino voleva, avrò aggiunto qualche altra lusinga. Tu sei la mia somma delizia, o frasi del genere. Tu mi rimetti al mondo con le tue carezze. Per te amo i boschi, per te adoro la solitudine. La mia bocca non farebbe che aspirare il tuo alito. Arrivano questi indirizzi ambigui all'orecchio di non so chi, che, tratto in inganno, pensa che Laura non sia che una ninfa e si convince che io ami una ninfa. Il delatore indiscreto di un crimine che non c'è, che fa? Va da Procri e quanto ha ascoltato le risussurra. Crede a tutto, l'amore. Lei crolla di schianto e mi dicono che, rianimatasi solo dopo un bel po', si dispera per la sua sventura, per l'iniquità del destino, per la mia slealtà. Esasperata da un'accusa campata in aria, ha paura di quel che non c'è, ha paura di un nome senza corpo e si lagna come d'una vera rivale, la povera. Alle volte un dubbio le viene e disperata spera di sbagliare, ricusa le prove, vuol vedere coi propri occhi, se non vede non se la sente di condannare il marito. L'aurora del giorno dopo aveva scacciato la notte. Torno nel bosco e una volta fatta un'ottima caccia, gironzolo e dico: «Aura, vieni, consola, auretta, la mia stanchezza!» E mi sembra, fra una parola e l'altra, di udire non so come un gemito. «Vieni, carissima!» seguito a dire. E dicendolo risento un rumore leggero, come di frasca che cade. «Questa è una bestia», mi dico, e subito scaglio la lancia. Era Procri, ferita in mezzo al petto, era Procri, e gridava «Povera me!» Riconosco la voce, e impazzito mi precipito verso la voce della mia sposa fedele. E lì la trovo appena viva, la veste stracciata e intrisa di sangue, che tenta di estrarre il suo maledetto regalo, e con delicatezza sollevo quel corpo che mi è più caro del mio. Mi strappo dal petto un brandello di stoffa e bendo la piaga e tento di arrestare il sangue e la imploro di non morire, di non lasciarmi assassino. Senza più forza, sull'orlo della vita, balbetta appena queste poche parole. Per il vincolo che ci unisce, per gli dèi del cielo e per quelli che mi aspettano giù, per quel po' di bene che merito e per l'amore che ancora ti porto ed è causa di questa mia morte, non la sposare, non prendertela nel letto al mio posto, ti supplico, Laura. Allora ho capito l'equivoco legato a quel nome e allora gliel'ho anche spiegato, ma a cosa serviva spiegarglielo? Mi scivola via, quel residuo di forze dilegua col sangue. Finché può guardare qualcosa, guarda me e dentro di me, nella mia bocca esala quell'anima sventurata. Però dal viso che aveva mi è parso morisse serena. Piangevano tutti al racconto dell'eroe che piangeva, quando ecco entrare Eaco con gli altri due figli e coi nuovi soldati che Cefalo prende in carico, armati di tutto punto. La stella Lucifero ha appena denudato la luce del giorno e messo in fuga la notte, che cade scirocco e montano nuvoloni. Venti più blandi consentono a Cefalo e agli uomini di Eaco di prendere la via del ritorno e di guadagnare felicemente il porto prima di quanto sperassero. Minosse intanto devasta le coste dei Megaresi e saggia la propria potenza militare sulla città dell'Alcatoe, regno di Niso. Niso che in mezzo alla testa, nel folto della sua veneranda canizie, ha un capello d'uno sgargiante rosso, garanzia di saldo potere. Per la sesta volta spuntava la falce di luna nuova e le sorti della guerra oscillavano ancora, ancora la vittoria irresoluta svolazzava di qua e di là. La reggia aveva una torre addossata alle mura, mura Canore, perché si diceva che Apollo ci avesse poggiato la lira sopra e che il suono si fosse incollato alla pietra. Aveva la figlia di Niso l'abitudine di salire lassù e di colpire con un sassolino i sassi sonori quando c'era la pace. Adesso, di lassù, per solito assiste a spietati combattimenti. Il protrarsi ormai della guerra le consente di riconoscere tutti i grandi per nome, armature, cavalli e divise e le faretre cretesi. E riconosce fra tutti i tratti del capo, del figlio di Europa, li riconosce fin troppo. Minosse si copre la testa con un casco piumato, lei sotto il casco lo trova bellissimo, imbraccia uno scudo di bronzo fiammante, secondo lei quello scudo gli dona moltissimo, stende all'indietro il braccio che brandisce un bel giavellotto, tanta destrezza unita a tanta forza la strega. Lui, incoccata la freccia, piega gli estremi dell'arco, lei giurerebbe che solo Febo incocchi così. Ma quando sfilato l'elmo egli scopre la faccia e vestito di porpora inforca il suo bianco cavallo con le gualdrappe a colori e gli orienta la bocca che schiuma, allora la figlia di Niso per poco non esce di testa, ma proprio per poco. Beato il giavellotto che tocca lui, chiama beate le briglie che lui stringe dentro la mano. L'impulso sarebbe cacciarsi con i suoi piedini nel folto dei nemici, se solo possibile. L'impulso sarebbe buttarsi a corpo morto dall'alto della torre nel campo degli uomini di Cnosso, o di spalancare al nemico le porte di bronzo, o di fare qualsiasi altra cosa piacesse a Minosse, seduta lassù a guardarsi le bianche tende del re di Creta. Chissà se debbo piangere o esultare, pensa, per questa guerra. Mi angustio perché Minosse è il nemico e lo amo. Ma se non ci fosse la guerra, quando mai lo avrei conosciuto? Potrebbe prendermi sempre come ostaggio e deporre le armi e magari tenermi con sé, come pegno magari di pace. Se chi ti ha messo al mondo è bella, bellissimo re, come te, beh, merita proprio che un dio sia impazzito per lei. Ah, come felice sarei se scivolando per l'aria con le ali potessi posarmi sul campo del re di Cnosso, rivelargli chi sono e l'amore, e chiedergli quanto vorrebbe per darmisi, esclusa restando la rocca della mia patria. Piuttosto che guadagnarmele col tradimento, rinuncio alle nozze cui tanto terrei, anche se vincitori clementi han reso più d'una volta la sconfitta gradevole ai vinti. Oltretutto, una guerra per vendicare la morte d'un figlio è giustissima, buona è la causa e le armi che la propugnano. Vincerà lui, lo sento. E che fine faranno le mura della mia città? Ma perché dovrebbe essere la violenza ad aprirgliele e non questo amore? Non sarebbe meglio vincesse senza stragi, senza ritardi, senza sprecare il suo sangue? Smetterei di angosciarmi, Minosse, che qualcuno possa colpirti inavvertitamente. Infatti, chi c'è di così bestiale da indirizzarti una lancia sapendo di farlo? Basta, ho deciso. Voglio consegnarmi, portando con me come dote la patria, e mettere fine alla guerra. Però volerlo non basta. Le sentinelle presidiano le porte e le chiavi le ha mio padre. Non temo che lui solo, povera me, inceppa i miei desideri. Gli dèi mi avessero fatto senza padre, ma no, che ciascuno è il proprio dio. La fortuna osteggia i voti dei vili. Un'altra, bruciata da tanta passione, avrebbe sicuro sacrificato con gioia tutto quanto si oppone all'amore. E perché un'altra dovrebbe aver più coraggio di me? Mi getterò tra le fiamme e le spade, ma non c'è bisogno di spade o di fiamme. Mi serve soltanto un capello paterno, mi sarà più prezioso dell'oro. Quella porpora lì mi farà felice e ottenere mi farà tutto quello che voglio. Mentre pensa così, sopravviene la notte, imbattibile nutrice di smanie, e con le tenebre cresce l'ardire. Era l'ora che il primo sonno scende sui cuori stanchi delle pene del giorno. In silenzio lei si introduce in camera del padre. Figlia gli strappa, crimine atroce, il capello fatale, e portando con sé la refurtiva infame, fila via velocissima dalla porta della città, si caccia in mezzo ai nemici, tanto conta sui propri meriti, e al cospetto di un re sbalordito si pronuncia così: «Io per amore l'ho fatto, io Scilla, figlia di Niso, ti sto consegnando la patria e i penati della mia casa. Non voglio altro premio che te. Tu questo capello di porpora prendilo in pegno d'amore, né pensare sia solo un capello. È la testa di mio padre. Stende il braccio e gli porge lo scellerato regalo. A tanto regalo Minosse si ritrae e, orripilato dal gesto pazzesco, risponde: «Onta dei nostri tempi, i celesti ti caccino al bando, ti sia ricusato ogni asilo e sulla terra e sul mare. Io certo non tollererò che a Creta, culla di Giove, mio mondo, metta mai piede il mostro che sei». E questo è quanto. Dettate le sue condizioni al nemico sconfitto, con l'equità che gli è propria, fa mollare gli ormeggi e comanda alla ciurma di spingere al largo i vascelli coi fregi di bronzo. Scilla, a vedere le navi che prendono il mare, a vedere che il condottiero non pensa di premiare il suo tradimento, esaurite le suppliche, si abbandona a una collera cieca e, protendendo le mani, scapigliata e furibonda, dove scappi e abbandoni chi ti ha fatto urla del bene e ti ha amato più della patria, più di suo padre? Ma dove scappi, canaglia, che hai vinto soltanto per merito mio e per colpa mia? Non ti ha commosso il mio dono, non ti ha toccato il mio amore, e ch'io abbia riposto in te solo tutta la mia speranza? Dove lo nascondo, il mio disinganno? In patria è disfatta, in macerie è la patria, ma non lo fosse, me la sbarrerebbe il mio tradimento. Tornar da mio padre, non l'ho messo nelle tue mani. I concittadini mi odiano, ed è giusto così, i vicini temono il mio contagio. Mi sono precluso il mondo, purché Creta mi aprisse le braccia. Ma se mi vieti anche Creta e mi abbandoni, tua madre allora, ingrato, non è Europa, è la Sirte deserta, è una tigre d'Armenia, è Cariddi frustata dal vento del sud. E nemmeno di Giove sei figlio, che tua mamma l'abbia sedotta in forma di toro lui. È una favola, è stato un toro, ma un toro vero e feroce, cui non è mai piaciuta una vacca a generarti. Puniscimi, Niso, papà, rallegrati, mia città, delle sventure di chi ti ha tradito. Le merito tutte, lo so. Mi spetta la morte, ma che almeno mi uccida una vittima dell'infame che sono. Perché vuoi punirlo tu il mio crimine, tu che grazie al mio crimine hai vinto? Contro la patria, contro mio padre, ho agito per favorirti. È proprio la moglie che meriti, la puttana che rannicchiata nel legno ha sedotto un toro selvaggio e ha portato in pancia il feto di un mostro. Ma tu lo senti quello che dico, o queste mie vane parole se le portano i venti via con le tue navi, ingratissimo? Ah, non mi stupisco più se Pasifae ti ha preferito un toro, eri più bestia tu. Lui, povera me, incalza la ciurma, schioccano le onde strappate dai remi, e io e questa mia terra diventiamo sempre più piccole. Ma scordarti di me, del bene che ti ho fatto, non ti servirà. Abbracciata alla poppa, mi lascerò trascinar sulle lunghe strade del mare, anche se tu non vuoi. Ciò detto, si tuffa e insegue la flotta con la forza della libidine, finché, molesta compagna, non si aggrappa alla nave di Cnosso. Appena la vede, suo padre, il quale da poco svolazza con le ali bionde dell'aquila di mare in cielo, si avventa a lacerarla col becco uncinato, appesa com'è. Dalla paura lei molla la poppa e sembra che l'aria la sostenga in volo perché non tocchi lo specchio del mare. È tutta una piuma, mutata in piume di uccello, mutua dal greco il nome Ciris, che vale reciso, il capello. Giusto il tempo di scender di nave e mettere piede sull'isola dei Cureti, Minosse scioglie il voto a Giove con 100 corpi di toro e addobba la reggia appendendo trofei. L'ignominia della famiglia intanto è cresciuta e l'orrore del mostro biforme proclama lo sceno adulterio materno. Minosse dispone di allontanare da casa quell'onta, relegandola nella tenebra d'un intricato edificio. Architetto famoso e geniale, Dedalo esegue, disordina ogni punto di riferimento, traendo l'occhio in inganno con l'inestricabile tortuosità di infiniti cunicoli. Come in Frigia, le acque del fiume Meandro, che giocano a serpeggiare in quel loro ambiguo andirivieni, tornandosi incontro, si vedono come saranno e orientate ora sulla sorgente, ora sul mare aperto, frastornano l'irresoluta corrente. Dedalo non altrimenti semina i suoi corridoi di insidie e a stento lui stesso ritrova l'uscita. A tal punto quell'edificio è una trappola. Lì dentro è dunque recluso il mostro mezzo ragazzo, mezzo toro, e due volte nutrito di ateniesi estratti a sorte di 9 anni in 9 anni, alla terza finalmente viene abbattuto. Con l'aiuto di una vergine, il figlio di Egeo, rimontando lo sdipanarsi d'un filo, guadagna la porta per cui nessuno era mai passato 2 volte, e detto fatto rapisce la vergine, figlia anche lei di Minosse, e fa vela su Nasso, per poi lasciare su quella spiaggia inumano la sua donna. Rimasta sola in singhiozzi, Libero Baccole corre in soccorso, la prende fra le braccia e dal buon fine di farne una stella lucente le toglie la coroncina dalla testa e la lancia in cielo. Quella vola leggera, leggera, e nel volo le sue perline non si trasformano in astri che, conservando la forma di corona, si fissano in cielo a metà fra il ginocchio di Nissa e l'uomo che regge il serpente. Quella che abbiamo ascoltato è la 19ª puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce, che andrà avanti fino al 5 settembre, in cui Vittorio Sermonti legge la sua stessa traduzione delle Metamorfosi di Ovidio, pubblicata da Rizzoli. C'è anche la sua collaborazione con il tecnico del suono Matteo Bolzoni. Questa di oggi, appunto, vi ricordavamo, è la 19ª puntata, che è un programma Alta Voce a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Papolini, Chiara Valerio. Potete riascoltare in streaming durante il periodo della messa in onda queste stesse puntate.